Ovviamente non è così e i dati non nostri ma i dati di ISPRA dimostrano che non è così, purtroppo. Una legge molto discutibile ma che alcuni elementi di novità li introduceva, compreso il fatto che, come diceva l'assessore Donini, il dentifricio è uscito dal tubetto, non riusciremo a far rientrare, in questa metafora dell'edificazione sparsa sul territorio, del consumo di suolo, a far rientrare il dentifricio nel tubetto, ma questa legge rappresenta il tappo che chiude definitivamente il tubetto e altro dentifricio non ne uscirà. Quello che hanno fatto in questi 4 anni è stato esattamente il contrario. Invece che chiudere i portoni della stalla per mantenere il bestiame dentro, hanno lavorato tutti i comuni, grazie a una legge confezionata apposta per soddisfare i desiderata gli interessi del mercato, hanno lavorato tutti i comuni non per fare il nuovo piano urbanistico generale che devono fare entro 3 anni, piano che avrebbe rappresentato la chiusura definitiva di tutte le previsioni pregresse e raccolte ereditate dai vecchi piani, ma hanno lavorato per fare varianti, approvare piani urbanistici attuativi, convenzionamenti con i privati, in modo da consentire la realizzazione di tutte le previsioni urbanistiche che ci tiriamo dietro dai PRG, dai piani regolatori generali ante legge 20 del 2000, tutti i PSC della legge 20 del 2000, con quel 3% di tesoretto che è ancora lì intoccato, no? Qualcuno, la regione dice, ma ancora il 3% non è stato toccato, e grazie ai fichi, hai continuato a costruire tranquillamente, anzi hai dato la possibilità, grazie al combinato disposto delle virgole e dei punti messi dalle gule della regione in modo tale che questo fosse possibile, anzi che fosse chiaramente incentivato. A questo punto il 3%, che era un'operazione intelligente, no? Dice, il 3% cos'è? È quel tesoretto che dal 2018 al 2050 ti consente di arrivare con un minimo di lasco al consumo di suolo a saldo zero, perché l'Europa ha detto 2050 consumo di suolo a saldo zero. Quel 3% ti serviva, dovevi gestirtelo per 32 anni, ormai sono diventati 27, per ogni evenienza, opere pubbliche, allargamenti di attività produttive, interesse pubblico, questo era lo scopo di quel 3%. Quel 3% è ancora lì, perché nel frattempo, se noi andiamo a vedere, quel 3% veniva calcolato, dice la legge, sul territorio urbanizzato al 2018, al gennaio 2018. Nel frattempo, dal 2018 a oggi, il territorio urbanizzato si è spostato verso la campagna, perché si sono realizzate tutte quelle previsioni che la legge avrebbe dovuto fermare, perché Donini diceva, è una legge che non prevede transitorio, è tassativa. Dopo 3 anni le giuste aspettative delle previsioni urbanistiche saranno azzerate, questo diceva la legge, proprio perentorio in questo caso. Certo, la perentorietà si è scontrata col fatto che ogni assessore di questa giunta, con la propria manina, ha messo emendamenti, proposte di legge, che hanno posticipato nel tempo, prorogato nel tempo l'entrata in vigore definitiva di questa legge. E oggi siamo nel 2023 e non sappiamo ancora, perché qui ci sono diverse interpretazioni, perché la giurisprudenza è fatta anche da interpretazioni diverse, ci sono diverse idee di che quest'anno è finito, questo è l'ultimo anno in cui si può realizzare quello che è previsione dei piani urbanistici pregressi. Qualcun altro dice, no, guarda che se la leggi per bene, quell'ultimo emendamento fatto ti consente di continuare anche nel 2024. Siamo in una regione innovativa, partecipativa, eccetera, eccetera, e siamo in una regione che consente di fare queste cose qui. Ecco, a proposito di proroghe, sono state almeno 3, giusto? Sono state 3. Una fatta da Calvano nel luglio del 2020, la motivazione è sempre prima la pandemia, il lockdown, l'uscita dal lockdown, la pandemia, il Covid, il mercato, l'aiuto che bisogna dare, però di fatto abbiamo avuto 3 proroghe. E la cosa drammatica è che, se andiamo a vedere delle foto di Faenza, il fatto che ci sono dei limiti individuati dalla pianificazione territoriale, dalla pianificazione urbanistica, di aree non edificabili, di aree a rischio di alluvione, di aree a rischio idrogeologico, di aree no pianificazione, no urbanistica, no costruzioni, che sono state nel frattempo costruite, edificate. Negli ultimi anni? Negli ultimi anni, certo. Condominio del Fiume, via Alcide De Gasperi 115 a Faenza, condominio del Fiume, dove è stato costruito il condominio del Fiume? Nel Fiume, nell'alveo di piena monosecolare del Fiume, sugli argini, che è finito ovviamente sotto. Questa è una esemplificazione di come si lavora, di come possono lavorare le pubbliche amministrazioni, perché mica tutte. Ci sono anche sindaci, assessori bravi, no? Che hanno fatto i loro piani, che sono partiti rispettando la legge. Ma la possibilità... Tu prima parlavi di un articolo, l'articolo 53, giusto? Sì. È la soluzione finale a tutti i problemi. La legge discussa, la legge che a seconda di come la leggi ti fa vedere il bicchiere mezzo pieno oppure il bicchiere mezzo vuoto. Poi c'è un articolo 53, l'ultimo, che ti consente di, se tu scegli quella procedura lì, ti consente di approvare la qualunque, senza rispettare nessuna esigenze di piano, previsioni dei piani urbanistici. Infatti anche lì ci sono ovviamente dei sindaci che si sono rifiutati. Reggio Emilia per esempio ha detto no, io non ho bisogno dell'articolo 53, io sto facendo il piano, io seguo la pianificazione urbanistica, credo nella pianificazione urbanistica, partecipate. Altri comuni che invece l'hanno scelta. Il comune di Bologna sta utilizzando l'articolo 53 e non gli accordi operativi, perché è più semplice, perché è più facile, perché ti consente di eliminare tutti quei lacci e lacciuoli rappresentati dalle valutazioni, dalla partecipazione, da eccetera eccetera eccetera. Il problema è che l'Emilia Romagna oggi è questo, ed è una regione che non porta in discussione, nonostante le promesse, gli incontri fatti con i gruppi consigliari eccetera eccetera, tutti a dimostrare, dichiarare l'interesse per i quattro progetti, proposti di legge che rappresentano un cambio di paradigma nelle politiche territoriali, nelle politiche sulle risorse, e invece siamo qua.